Siamo al telefono con Fulvio Ervas, curatore del libro La valigia Aran di Andrea Antonello. Buongiorno Fulvio, benvenuto su Radio Città Fugico. Buongiorno, grazie. Allora, questo libro di cui andiamo a parlare non è, diciamo, scritto come un classico romanzo, ma è un racconto di vita vera, sotto forma di dialoghi. Chi prende voce in questi dialoghi? Allora, è la voce, in realtà è la voce di 20 anni di vita di Andrea Antonello, che è un ragazzo con autismo, di cui avevo raccontato il viaggio con il padre in Sette Abbracci Non Avere Paura. Dopo 10 anni abbiamo sentito, su richiesta del padre, non solo la necessità, ma anche proprio il sentimento di provare a raccontare da dentro che cosa vuol dire vivere l'autismo, che cosa vuol dire scandagliare le bufere nella testa di un ragazzo con autismo. Quindi, poiché il ragazzo da 20 anni usa la scrittura facilitata, da 20 anni sono rimasti gli scritti che ha fatto, io ho provato a leggerli, moltissime pagine, e ci ho trovato dentro delle cose che meritavano di emergere, di essere riportate a un mondo di lettori, e comunque al mondo, no? E quindi ho raccolto delle sue cose migliori, le ho fatte arbitrariamente, ho scelto le cose che più piacciono a me, le ho messe in fila, anno dopo anno, in cui si vede l'evoluzione, i cambiamenti, la vita, ma anche l'inferno ovviamente, nella condizione di Andrea, con tanta speranza ma anche con tanta sofferenza. Le volevo chiedere proprio come ha selezionato tra le migliaia di scritture che ha fatto nel corso appunto della sua vita Andrea, come è avvenuta la selezione? Allora, naturalmente io sono stato facilitato dal fatto che avevo raccontato prima la storia, quindi avevo una certa confidenza con la storia familiare. Dopo il libro Se ti abbraccio abbiamo un rapporto di amicizia con il padre. Andrea, una volta il mese più o meno, quando passano, abitiamo su 2 paesi diversi, passano, mi viene a salutare, c'è un rapporto che è cresciuto in questi anni, e poi ho semplicemente preso i plichi dei suoi scritti raccolti anno per anno e mi sono buttato dentro scoprendo di tutto, perché sono giornate in cui dice molto, giornate in cui non ha voglia di scrivere. Per lui non è, chiamiamo così, un piacere le sedute di scrittura, è un esercizio che in qualche modo lui fa, alle volte è imposto a fare, per stare in questo mondo, per comunicare con noi. Io ho trovato di tutto, mi sono preso proprio la libertà, quindi in qualche modo mi assumo la responsabilità di scegliere le cose più belle, perché secondo me una vita così va raccontata anche attraverso le cose più belle. In queste cose belle, no, cui lui parla, perché risponde a domande che gli facciamo noi, che gli fanno i formatori, c'è anche del dolore, c'è anche della paura, c'è della sofferenza, e anche quella racconta la complessità, ma con la sua poesia, della vita di Andrea. Questo titolo invece così particolare del libro, anche un po' enigmatico, da dove deriva? Perché una dei primi scritti, se non dico il primo giorno, ma certo una delle prime sedute, mi viene chiesto semplicemente la domanda: di che colore è questa valigia? In una fase in cui lo stavo testando per vedere come rispondeva, come lavorava, e lui scrive, ma poi si ferma: la valigia è aran, tagliando il colore della valigia. Era un'immagine che avevano mostrato. Ma questa sospensione, questa specie di colore strano che è un arancio incompleto, una lunghezza d'onda speciale, mi pareva che ricordasse il fatto, e per questo abbiamo scelto come titolo, che in qualche modo nella vita tutti dobbiamo avere, abbiamo una valigia aranca, una valigia strana, una valigia che ci accompagna, in cui mettiamo le nostre aspettative, le nostre paure, in qualche modo è un armamentario che ci permette di affrontare le cose complesse della vita. Cos'è cambiato per lei nella stesura di questo libro rispetto al primo che appunto citava, in cui racconti invece il viaggio di Andrea e il padre? Che nel primo lo sforzo è stato la difficoltà anche, è stata quella di raccontare in prima persona come se io fossi Franco Antonello, cioè il papà di Andrea. Quindi quando io ho cominciato a scrivere quel libro, di persone che non conoscevano, non erano amici miei, non avevo alcuna confidenza, no? Dovevo mettermi nelle scarpe di Franco, immaginare un viaggio. Io tra l'altro sono uno pauroso con la moto, non sarei mai andato in viaggio, non avrei avuto il coraggio, la follia, non so come definirla, ma insomma la determinazione di Franco di fare un viaggio così complesso con un ragazzo naturalmente complicato come Andrea, mentre qui ovviamente l'ho fatto davvero col cuore, mentre lì insomma è una sfida, insomma era emotivamente diverso. Qui invece conoscevo la storia, mi sono proprio immerso, ho cercato di fare, spero bene, ma insomma ci ho messo un po' il cuore, di dare una sorta di omaggio a questo ragazzo, a questa famiglia, a questa storia, no? Ed è stato un tentativo di portare una sorta di piccola sonda dentro il cervello dell'autismo e provare a vedere che cosa c'è dentro. Ma naturalmente quello che c'è dentro è visto attraverso quello che noi chiediamo a loro, cioè le richieste, le domande, sono tutte risposte sono tutti agganci con cui loro cercano di rimanere nel nostro mondo, perché vivono mentalmente un mondo che ha regole diverse e si confrontano con fatica con le nostre regole. Io penso che da questo libro si evinca proprio quanta coscienza e quanta consapevolezza possono avere questi ragazzi, in primis appunto Andrea con la sua storia. Grazie Fulvio per avercela raccontata e grazie soprattutto ovviamente anche ad Andrea Antonello. Grazie a voi.